Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. La fortuna, sorridendo alla partenza di Messier de Balibari, gli permise di vincere una bella somma al suo banco di Faraone. Alle 10 della mattina dopo, la carrozza del cavalier di Balibari si fermò come al solito alla porta del suo albergo, e il cavaliere che stava alla finestra, vedendo arrivare la vettura, discese le scale con la dignità di sempre. «Dov'è quel mascalzone del mio Ambrose?» disse, guardandosi attorno, senza trovare il servitore ad aprirgli lo sportello. «Abbasserò io gli scalini, per vostro onore», disse un gendarme che stava accanto alla carrozza, e il cavaliere era appena entrato che la guardia saltò su, dietro di lui. Un'altra montò a cassetta accanto al cocchiere e quest'ultimo fece partire la vettura. «Santo cielo!» disse il cavaliere. «Che storia è questa?» «Vi state dirigendo verso la frontiera», disse il gendarme, toccandosi il cappello. «È una vergogna, un'infamia! Insisto per essere lasciato davanti alla residenza dell'ambasciatore d'Austria!» «Ho l'ordine di imbavagliare vostro onore se gridate», disse il gendarme. «Tutta Europa sentirà parlare di questo», disse il cavaliere furibondo. «Come volete», rispose la guardia. E poi si chiusero tutte e due in un ostinato silenzio. Il silenzio non venne mai rotto, da Berlino a Potsdam, che il cavaliere attraversò proprio mentre Sua Maestà passava in rivista il suo corpo di guardia in quella città. Mentre il cavaliere passava accanto a Sua Maestà, il re alzò il cappello e disse: «Non fatelo scendere e vi auguro buon viaggio». Il cavaliere de Balibari rispose a questa cortesia con un profondo inchino. Avevano oltrepassato da poco Potsdam quando, boom, cominciò a tuonare il cannone dell'allarme. «È un disertore», disse la guardia. «È mai possibile?» disse il cavaliere e si rintanò di nuovo in fondo alla carrozza. Sentendo i colpi di cannone, la gente del popolo si assiepava lungo la strada con fucili da caccia e forconi nella speranza di acchiappare il fuggiasco. Anche i gendarmi erano visibilmente occupati a tenere gli occhi aperti in caso lo incrociassero. La taglia per chi riconsegnava un disertore era di 50 corone. «Ammettetelo, signore», disse il cavaliere all'ufficiale di polizia che era in carrozza con lui. «Vorreste solo liberarvi di me, da cui non potete ricavare nulla, e mettervi sulle tracce del disertore che potrebbe farvi fruttare 50 corone. Perché non dite al postiglione di accelerare? Potrete depormi alla frontiera e ritornare ancora più presto alla vostra caccia». L'ufficiale disse al postiglione di fare presto, ma al cavaliere la strada sembrava non finire mai. Un paio di volte credette di udire un rumore di cavalli al galoppo dietro di lui, oppure gli sembrava che i suoi cavalli andassero a meno di 2 miglia all'ora, e invece correvano come lepri. Finalmente apparvero le sbarre bianche e nere nei pressi di Brugg e, dalla parte opposta, quelle verdi e gialle della Sassonia. Vennero fuori i doganieri sassoni. «Non ho bagaglio», disse il cavaliere. «Il signore non porta nulla di contrabbando», ghignarono le guardie prussiane e presero congedo dal prigioniero con grande rispetto. Il cavaliere de Balibari diede loro un Federico a testa. «Signori», disse, «vi auguro una buona giornata. Vorreste gentilmente andare alla casa da cui siamo partiti stamattina e dire al mio domestico di mandarmi il bagaglio alle 3 corone a Dresda?» Poi, dopo aver ordinato cavalli freschi, il cavaliere riprese il viaggio verso la capitale. Inutile dirvi che ero io il cavaliere. Dal cavaliere de Balibari al signor Redmond Barry, gentiluomo inglese. «Caro nipote Redmond, questa lettera ti giunge per mezzo di una mano sicura, quella di Mr. Lumpit, della legazione inglese, che è già a conoscenza della nostra meravigliosa storia. Ma presto la saprà tutta Berlino. Per ora ne conoscono soltanto la metà. Sanno solo che un disertore è scappato indossando i miei vestiti e sono tutti pieni di ammirazione per la tua astuzia e il tuo coraggio. Ti confesso che per 2 ore dopo la tua partenza sono rimasto a letto con non poca trepidazione, temendo che a Sua Maestà non venisse il chiribizzo di mandarmi a Spandau per il brutto scherzo di cui ci siamo entrambi resi colpevoli. Ma per questa evenienza avevo preso le mie precauzioni. Avevo scritto una relazione sull'affare al mio superiore, l'ambasciatore d'Austria, raccontandogli tutta la verità, che tu eri stato mandato a spiarmi e come poi era saltato fuori che eri un mio parente stretto, rapito e costretto ad arruolarsi, e perciò avevamo deciso insieme di trovare un modo per fuggire. Si sarebbe riso tanto alle spalle del re se la cosa fosse stata risaputa che lui non si sarebbe mai azzardato ad alzare un dito contro di me. Che cosa avrebbe detto Monsieur de Voltaire di un simile gesto da tiranno? Ma era la mia giornata fortunata ed è andato tutto come desideravo. Mentre ero ancora a letto, 2 ore e mezzo dopo la tua partenza, ecco che entra il tuo ex capitano, Potsdorf. Redmond, dice con il suo tono imperioso davvero tedesco, sei qui? Nessuna risposta. Quel mascalzone se n'è uscito, dice lui. E subito si dirige verso il mio cofanetto rosso, dove tengo le lettere d'amore, l'occhio di vetro che portavo un tempo, i miei amatissimi dadi portafortuna, con cui ho fatto quel famoso 13 a Praga, le mie 2 dentiere di Parigi e altri oggetti personali che tu conosci. Prima ha provato ad aprirlo con un gran mazzo di chiavi, ma non ce n'era nessuna che entrasse nella mia piccola serratura inglese. Allora il mio gentiluomo tira fuori di tasca uno scalpello e un martello, si mette al lavoro come uno scassinatore professionista e alla fine spalanca la mia cassettina. Per me era venuto il momento di agire. Avanzo verso di lui, armato di un'enorme brocca. Arrivo alle sue spalle senza far rumore, proprio quando ho appena aperto il cofanetto e con tutte le mie forze gli assesto un tale colpo sulla testa che la brocca si disintegra, mentre il buon capitano cade a terra con un rantolo privo di sensi. Credevo di averlo ammazzato. Allora mi attacco a tutti i campanelli di casa e grido, bestemmio, urlo: al ladro, padroni, assassini, assassini al fuoco! Finché tutto il personale dell'albergo non si precipita su per le scale. Dov'è il mio servo? Tuono io. Chi osa derubarmi in pieno giorno? Guardate questa canaglia che ho sorpreso mentre scassinava la mia cassetta! Chiamate la polizia! Chiamate Sua Eccellenza l'ambasciatore d'Austria! Tutta Europa sarà informata di questo insulto! Santo cielo, dice l'albergatore, ma noi vi abbiamo visto uscire 3 ore fa. Io, gli dico, me ne sono stato a letto tutta la mattina, mio buon uomo. Dov'è quel mascalzone di Ambrose? No, no, aspettate. Ma dove sono i miei vestiti? La mia parrucca? Infatti stavo lì davanti a loro in veste da camera e calze, col berretto da notte in testa. Ho trovato, dice una camerierina. Ambrose se l'è data con i vestiti di vostro onore. E il mio denaro? Il mio denaro, dico. Dov'è la mia borsa con dentro 48 federici? Ma una delle canaglie l'abbiamo qui. Guardie, arrestatelo. È il giovane von Potsdorf, dice l'albergatore, sempre più meravigliato. Come? Un gentiluomo che forza la mia cassetta con martello e scalpello? Ma impossibile! Intanto il capitano von Potsdorf stava riprendendo i sensi, con sul cranio un bozzo, grosso come un padellino. E le guardie l'hanno portato via e si è fatto venire un giudice per estendere un verbale dell'accaduto. E io me ne sono fatto dare una copia che ho subito mandato all'ambasciatore. L'indomani mi hanno tenuto prigioniero nella mia stanza, continuava la lettera di mio zio, e mi hanno scatenato addosso un giudice, un generale e un esercito di avvocati, ufficiali, funzionari, tutti impegnati a intimidirmi, confondermi, minacciarmi e allettarmi. Ho detto che era vero che mi avevi detto di essere stato rapito e arruolato, ma che pensavo che fossi stato congedato e che ti avevo assunto con le migliori raccomandazioni. Ho fatto appello all'ambasciatore, che non ha potuto fare a meno di venire in mio aiuto. E per farla corta, il povero Potsdorf ora è sulla via di Spandau, mentre suo zio, Potsdorf Senior, mi ha portato 500 luigi con l'umile preghiera di lasciare subito Berlino e mettere a tacere questo spiacevole incidente. Sarò da te alle 3 corone il giorno dopo quello in cui ricevi questa lettera. Invita a pranzo Mr. Lampit. Non tirare al risparmio, sei mio figlio. Tutta Dresda conosce bene il tuo affezionatissimo zio, il cavaliere de Balibari. Fu così che attraverso straordinarie vicissitudini mi trovai di nuovo libero e allora decisi fermamente di non cadere mai più tra le mani di un reclutatore e di essere da quel momento e per sempre un gentiluomo. Con la somma di cui ho parlato e grazie a una serie di colpi di fortuna che cominciò proprio allora, fummo in grado di fare una figura non indegna. Mio zio mi raggiunse presto all'albergo di Dresda, dove, fingendomi malato, me n'ero stato buono fino al suo arrivo. E siccome il cavalier de Balibari godeva di particolare favore alla corte di Dresda, era stato amico intimo del defunto monarca, elettore di Sassonia e re di Polonia, il più dissoluto e il più simpatico dei principi europei. Mi ritrovai ben presto nella migliore società della capitale sassone, dove posso dire che la mia persona e i miei modi, nonché le singolari avventure di cui ero stato eroico protagonista, mi guadagnarono un'accoglienza molto calorosa. Non c'era ricevimento patrizio a cui non fossero invitati i due signori di Balibari. Ebbi l'onore di baciare la mano all'elettore e di essere graziosamente ricevuto a corte, e scrissi a casa a mia madre una così sfolgorante descrizione della mia prosperità che quell'anima buona stava quasi per dimenticare la sua salvezza celeste e il suo confessore, il reverendo Joshua Jols, per raggiungermi in Germania. Ma viaggiare era molto difficile a quei tempi, e così ci venne risparmiato l'arrivo della buona signora. Credo che l'anima di mio padre, Harry Berry, che aveva sempre avuto uno spirito tanto distinto, debba essersi rallegrata nel vedere la posizione che ora occupavo. Tutte le donne ansiose di ricevermi, tutti gli uomini furiosi di gelosia, chiacchierate familiari con duchi e conti a cena, minuetti con baronesse più che bennate, assurdo aggettivo con cui si fanno chiamare in Germania, con adorabili eccellenze, addirittura con altezze e trasparenze. Chi poteva competere con il brillante, giovane, nobile irlandese? E chi avrebbe mai detto che appena 7 settimane prima ero stato un semplice soldato? Ma mi vergogno a ripensarci. Uno dei momenti più deliziosi della mia vita fu al ballo di gran gala al Palazzo dell'Elettore, dove ebbi l'onore di ballare niente meno che con la Margravia di Bayreuth, sorella del vecchio Fritz. Vecchio Fritz, Federico il Grande. Per 5 anni avevo portato la sua odiosa livrea blu di tela grezza, lustrato il suo cinturone e mangiato le sue abominevoli razioni di birra leggera e salsa di crauti. Mio zio aveva vinto al gioco una carrozza inglese da un gentiluomo italiano. Fece dipingere sugli sportelli il nostro stemma, più splendido che mai, sormontato, visto che discendevamo dagli antichi re, da una corona irlandese grandissima e ricoperta di una splendida doratura. Fece incidere questa corona al posto della nostra vecchia coroncina sul sigillo d'ametista di un grosso anello che portavo all'indice, e non mi vergogno di confessare che ero solito dire che quel gioiello apparteneva alla mia famiglia da molte migliaia di anni, perché in origine era stato di proprietà di un mio diretto antenato, Sua Maestà il defunto re Brian Boru, o Barry. Scommetto che le leggende della consulta araldica non sono più autentiche della mia. All'inizio, l'ambasciatore e i gentiluomini della legazione inglese cercavano di evitare noi due nobili irlandesi e contestavano le nostre pretese di nobiltà. L'ambasciatore era figlio di un lord, è vero, ma era anche nipote di un droghiere, e io glielo dissi in faccia al ballo mascherato del conte Lobkowitz. Mio zio, da quel nobile gentiluomo che era, conosceva l'albero genealogico di ogni famiglia importante d'Europa. Diceva che era la sola scienza che si convenga a un gentiluomo. E quando non giocavamo a carte, passavamo ore a leggere le genealogie e a imparare i blasoni per familiarizzarci con le parentele tra le persone del nostro rango. Ahimè, questa nobile scienza è caduta oggi in discredito, così pure le carte da gioco, e non riesco a immaginare in che modo, senza questi studi e passatempi, un uomo d'onore possa stare al mondo. La mia prima questione d'onore con un uomo del gran mondo avvenne proprio a proposito della mia nobiltà, con il giovane Sir Ramford Bamford dell'ambasciata inglese. Mio zio allo stesso tempo mandò un cartello di sfida al ministro, che però declinò di venire. Ferì Sir Ramford alla gamba tra le lacrime di gioia di mio zio che mi aveva accompagnato sul terreno. Vi assicuro che da allora nessuno di quei giovani gentiluomini mise più in dubbio l'autenticità del mio albero genealogico o rise della mia corona irlandese. Che vita deliziosa era la nostra ora. Ero certo di essere nato gentiluomo, perché mi veniva del tutto naturale di appassionarmi agli impegni di quella vita, e di impegni certamente si tratta. Può sembrare che una vita così sia tutto un piacere, ma garantisco a ogni persona di basso ceto, che per caso si trovi a leggermi, che noi, delle classi superiori, dobbiamo lavorare tanto quanto loro. Mi alzavo a mezzogiorno, è vero, ma non ero forse rimasto al tavolo da gioco fino a molto dopo mezzanotte. Molte volte siamo tornati a casa per andare a letto proprio mentre le truppe si mettevano in marcia per la rivista del primo mattino. Mi si scaldava il cuore a sentire le trombe che suonavano la sveglia prima dell'alba e vedere i reggimenti in cammino verso le esercitazioni e pensare che non ero più legato a quella disgustosa disciplina, ma restituito alla mia condizione naturale. Mi ci trovai subito a casa, come se non avessi mai fatto altro nella mia vita. Avevo un gentiluomo per servirmi e un friseur francese per acconciarmi i capelli la mattina. Riconoscevo il gusto della cioccolata quasi per intuito e prima di aver passato una settimana nella mia nuova posizione sapevo distinguere tra la vera cioccolata spagnola e quella francese. Avevo anelli a tutte le dita, orologi in tutte e due i taschini, bastoni da passeggio, ninnoli preziosi e tabacchiere di ogni sorta. Un oggetto più elegante dell'altro. Per i merletti e le porcellane avevo per natura il gusto più fine di chiunque io abbia mai conosciuto. Sapevo giudicare un cavallo con la perfetta competenza di un mercante ebreo di Germania. Nel tiro e negli esercizi atletici non avevo rivali. Parlavo con scioltezza tedesco e francese, anche se non li scrivevo bene. Avevo almeno 12 completi, di cui 3 ricamati d'oro e 2 con merletti d'argento, e poi un mantello di velluto color granata foderato di zibellino e un altro color grigio francese con merletti d'argento e foderato di cincilla. Portavo vesti da camera di Damasco, prendevo lezioni di chitarra e cantavo squisitamente canzonette francesi. E dove si poteva mai trovare un gentiluomo più perfetto di Redmond de Balibari? Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli,